Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 16 agosto, buongiorno a tutti e a tutti, in particolare alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna e del carcere della Dozza. E bentornati a Liberi Dentro Eduradio TV, in onda su Radio Città Fucico, su Lepida TV e Teletricolore. E buongiorno da Antonella Cortese e da Ignazio De Francesco che è qui con noi. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti, buon inizio di settimana. Buon inizio settimana con un ringraziamento speciale a chi ci ha sostenuto in questo periodo, perché sapete che è terminata la nostra campagna di crowdfunding e c'è un pensiero per queste persone che ci hanno veramente sostenuto. Voglio ringraziare personalmente Patrizia Fulle, Caterina Dacci e Salvatore Forte. Grazie per averci sostenuto. E intanto ti passo la parola, Ignazio, oggi di che si parla? Ah, guarda, Luana, una delle collaboratrici più affezionate, ma anche critiche, perché anche fa tante critiche a Eduradio TV dal carcere, ci aveva detto la scorsa settimana quanto è importante il contatto della cittadinanza con il carcere, soprattutto i giovani, per l'educazione alla legalità. Aveva parlato del blackout per descrivere quel tipo di persone che sono in carcere per il delitto unico. Il maledetto pomeriggio. Allora io le ho chiesto nell'ultimo incontro che abbiamo avuto di spiegarsi meglio perché è una situazione tremendamente vicina a ciascuno di noi. Tu, io, chi ci ascolta ora, magari che in una situazione di grande turbamento che potrebbe portare anche a quel maledetto pomeriggio. Infatti è proprio così, Ignazio. Senti, ma che cosa ci insegna Luana dalla sua esperienza personale? Il suo testo si intitola È un attimo, non lo possiamo leggere tutto, ma è tutto giocato su questa cosa qui. E inizia dicendo: è veramente un mondo a parte il carcere per una persona che non vi è mai entrata e che si trova improvvisamente, sottolinea improvvisamente, dietro quei grandi cancelli è un vero trauma. Una vita normale, fatta di famiglia, lavoro, amici, casa, insomma, quella normalità che molti snobbano o danno per scontata e che non hai più. Non hai più la libertà di nulla, tranne i tuoi pensieri, che però sono confusi, tanto confusi. Infatti, è un rischio particolare più per i giovani o no? Che ne dici? Sì, lei mette dentro un po' tutti, anche da osservatrice, dice io qua ho incontrato, trovandomi a subire il carcere, ho parlato con tante persone nella parte femminile, no? Tante storie, ho parlato con donne che in un moto di difesa hanno ucciso. E poi tante situazioni, forse con qualcuno vicino con cui confrontarsi, con cui parlare, potevano essere evitate, ma non è stato così. È comunque difficile in certe circostanze riuscire a fidarsi di qualcuno. Anche il coraggio di chiedere aiuto, preannunciando una situazione che ti coinvolge in tutti gli aspetti più sacri che hai, famiglia, figli, casa, non è facile, ma la colpa per il tuo gesto ti rimarrà dentro a vita. È stato un attimo. Basta una spinta, dice, un momento sbagliato, un'ira, una cosa, e ti ritrovi a fare qualcosa che non avresti forse mai immaginato. Sai cosa, Ignazio? Sto pensando che a volte bisogna riconoscere di aver bisogno di chiedere aiuto, che non è una cosa facile, non è una cosa facile per nessuno. Immagino in una situazione del genere sarà ancora più complicata. Hai perfettamente ragione e qui, in questo punto della sua lettera, Luana in qualche modo si rivolge ai ragazzi. Ragazzi, se ci state ascoltando, ascoltate la vostra sorella, amica, concittadina Luana, quello che ci dice dal carcere. I ragazzi giovani sono forse i più esposti a questo blackout. Non sono consapevoli spesso delle conseguenze di certi gesti, non percepiscono il filo sottile che divide legalità e illegalità e corrono il rischio di cadere nel pericolo, un pericolo per sé e per gli altri che può portare a conseguenze gravi. E lei dice magari vai in discoteca, ecco anche ai Green Pass, una bevuta, un litigio, una spinta, abbiamo visto proprio pochi giorni fa un bisticcio per strada, un uomo muore davanti alle sue figlie, sotto gli occhi di sua moglie, quel ragazzo di 20 anni paga per tutta la vita quello che non avrebbe mai pensato di fare quel giorno lì. E lei dice, finisce così dicendo, la mente umana è complessa, fatta in larga parte di istinti atavici, che la cultura, l'intelligenza, la volontà possono in parte gestire, solo in parte. Quell'attimo può arrivare all'improvviso, forse i segnali di un eventuale blackout possono anche esserci, ma non tutti sono in grado di leggere, gestirli e dominarli. Torno al ragazzo di 20 anni di Bergamo, è uscito con un coltello, forse non pensava di fare e non voleva fare quello che fa, ma una spinta, un litigio lo ha messo nella condizione di pagare con tanti anni di sofferenza. E poi la sofferenza per la famiglia a cui ha fatto male e la sua vittima. Ignazio, ci fermiamo per un po' di musica. Che dici? Che cosa proponi e a chi lo dedichi? Allora, ci fermiamo per un po' di musica. Io vorrei andare a proporre questo brano di Omeilai, che è un cantante nigeriano che canta Lolo. E perché un cantante nigeriano? Lo dedichiamo a Veronica De Salù, che la mamma ormai lo chiamiamo Faustino, il Faustino nazionale, cioè uno il campione della 4% olimpica, compatta Jacobs e Tortu, un ragazzo che è arrivato in Italia dalla Nigeria. Pensate, solo poco tempo fa ha avuto la nazionalità italiana, prima correva come una freccia, ma non aveva la cittadinanza, quindi non potevano portarlo alle Olimpiadi. E quindi, però la dedica è per lei, per Veronica, perché Veronica, come sapete benissimo, fa la badante, ne ha fatte di tutti i colori, i pomodori, le fabbriche, le raccolte, cioè una che ha sgobbato tutta la vita e ci insegna come si può essere veri italiani venendo anche da un paese come la Nigeria. Allora ascoltiamola. Good day, loyal friends, I love them too. I look nice, but I'm not so, so good. I got something I just wanna prove. Yourself inside my room. Let me show you something. Something you will appreciate. Oh. Let me show you something. Eccovi, bentornati, siete sempre su Liberi Dentro Eduradio TV e dopo aver ascoltato il brano lanciato da Ignazio vorrei parlarvi di un argomento che francamente ho letto su un articolo molto bello della Stampa, un articolo di Marino Niola dal titolo Perché la razza non esiste, che ci induce un po' a riflettere sulla parola razza, che per noi umani in realtà è un concetto che effettivamente non esiste. Ma in che senso la razza non esiste? Perché, Ignazio, se la razza è una conseguenza dell'origine, allora è il modo in cui viviamo che ci fa essere ciò che siamo. Non è non una presunta, diciamo, origine biologica. E comunque l'origine, come diceva un grande filosofo berlinese, cioè Walter Benjamin, sta nel fiume delle trasformazioni e rimescola continuamente i materiali della nostra nascita. Al mondo non ci sono che due razze, quella di chi ha e quella di chi non ha. Queste sono le parole che Cervantes nel Don Chisciotte mette in bocca alla nonna di Sancho Panza per riassumere i fondamentali della condizione umana. Siamo solo nel 1605, quindi al tempo delle colonizzazioni e delle scoperte geografiche. Fra le persone veramente intelligenti il concetto di razza è già vecchio, è già obsoleto, un arnese del pensiero ormai già quasi in disuso. buono solo per chi vuole farne un po' un uso strumentale, diciamo, un po' come succede anche oggi, ahimè. Certo, è la parola che viene spesso usata come un'arma. Eh sì, Ignazio, purtroppo è proprio così. Perfino quando viene usata con le migliori intenzioni. Ci ricordiamo che l'articolo 3 della nostra Costituzione cita testualmente: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Dove però il termine viene impugnato dai padri costituenti un po' come antidoto esplicito contro quella malattia, quella viralità che aveva un po' ammalato le coscienze del tempo, delle leggi razziali, o meglio, forse sarebbe meglio definirle leggi razziste. Potremmo quindi considerarlo un po' come una malattia del linguaggio, in grado però di resistere con degli anticorpi fortissimi della civiltà e della conoscenza. E sia la scienza che la ragione hanno un bel affannarsi, agitarsi a scodellare prove che la razza non spiega un bel niente delle differenze tra gli uomini, che i nostri comportamenti non sono un prodotto di madre natura, ma di madre cultura. Però inutile nasconderlo, Antonella, etichettare e trattare gli altri come inferiori o peggiori in virtù della cosiddetta razza è una cosa che succede fino ad oggi. Eh no, infatti hai ragione, succede fino ad oggi, ma in realtà la questione di fondo resta, diciamo, la sproporzione tra l'inconsistenza scientifica della nozione di razza, perché appunto non esiste, e la sua invece resistenza storica e politica. A denunciare per primo questa sproporzione è stato un altro grande filosofo, Claude Lévi-Strauss, il più grande antropologo di sempre, per essere preciso, che già nel 1952, a pochi anni dall'orrore della Shoah, tra l'altro, scrive su invito dell'UNESCO Razza e Storia, un illuminato discorso sugli usi e abusi della parola razza, ma poi successivamente nel 71 scrive un altro libro che si chiama Il colore delle idee, dove il grande studioso smonta uno dopo l'altro i falsi sillogismi razziali fondati sui risultati delle ricerche scientifiche e che affermavano appunto che la razza non esiste. È la cultura invece che determina quel che chiamiamo erroneamente razza e non il contrario. Insomma, Ignazio, è il modo in cui viviamo che ci fa essere ciò che siamo, non una presunta origine biologica. Vi dico solo una cosa velocissima, e cioè che il 99% del nostro DNA è comune a tutti gli altri individui del pianeta. È solo quell'1% che distingue me da mio fratello, me da Ignazio, che ci distingue tra le persone, insomma. E peraltro è in continuo cambiamento anche per gli effetti, per effetto di scambi, ibridazioni, migrazioni, contatti. Insomma, ribadisco, la razza non esiste sul piano scientifico, ma purtroppo resiste come mito, soprattutto come mito politico. Allora, sì, dimmi, prego, scusami. Allora io direi fermiamoci a questo punto. Facciamo uno stacco musicale. Mi è venuto in mente questo di lanciare questa proposta, di chiedere di scriverci cosa ne pensate voi della razza, delle teorie razziali, sia le persone che sono in carcere e sia anche le persone che sono da fuori. Apriamo un dibattito su questo tema. Sì, infatti apriamo un dibattito, scriveteci a redazione liberidentro@gmail.com e ascoltiamo insieme il brano di Ivano Fossati, Mio fratello che guardi il mondo, tratto dall'album del 1992 di Lindbergh. A voi. Mio fratello che guardi il mondo, e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo, il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Sono nato e ho lavorato in ogni case e ho difeso con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo. Che vedi, mio fratello, che guardi il mondo, e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo, e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. E dopo il bellissimo brano di Fossati, passo la parola a Caterina Bombarda e Lorenzo Amorosi, che intervistano Antonio Molinaro, ispettore della Polizia Penitenziaria. A voi. Ciao a tutti, siamo qui nella Casa Circondariale di Bologna e oggi siamo insieme ad Antonio Molinaro per l'intervista per la pillola insieme ad ASO Città di Bologna per Liberi Dentro e Durati. Sì, parleremo con appunto l'ispettore Antonio Molinaro del suo lavoro, del suo ruolo all'interno della Casa Circondariale di Bologna. Sarà un'intervista molto ricca che vi accompagnerà per diverse pillole per l'appunto costruite da ASO Città di Bologna. Ascoltatela, è molto interessante. Via con la pillola. In carcere si è tutti separati, è il luogo della massima separazione, cioè separati i detenuti in sezioni o circuiti, separati i detenuti dalla comunità e dalle famiglie. E sembra che questa separazione, che è parte del mandato del dispositivo carcere, impatti poi anche sul personale penitenziario, soprattutto sugli agenti. E spesso sono persone che si trasferiscono per lavoro, lontano da casa, da soli, che rimangono a vivere dentro gli istituti. E noi come società esterna comunque siamo poco consapevoli di questo impatto, quindi volevo chiederle, dottor Molinaro, come vive lei la sua separazione dalla città, dalla famiglia e soprattutto dagli affetti. Allora, sì, è vero che appunto il carcere è un luogo appunto che separa e appunto i detenuti, come ha detto lei, una volta che vengono in carcere sono separati dalla propria famiglia, e poi lo stesso ordinamento penitenziario fa delle ulteriori separazioni all'interno degli istituti penitenziari, che ne so, i minorenni dai maggiorenni, i maschi dalle femmine, oppure i detenuti con posizione giuridica di definitivo agli imputati, i giovani adulti, insomma dagli adulti, e poi ci sono anche i vari sistemi quali i circuiti anche dei 41 bis, dei collaboratori di giustizia, oppure tipo Bologna è un istituto a media sicurezza, ma ci sono anche altri istituti che sono a custodia attenuata, oppure ci sono delle sezioni che hanno ancora altre differenze, quali dove sono ubicati i detenuti di alta sicurezza. Quindi ci sono molte regole un po' diverse, separazioni. Molte persone che fanno appunto questo lavoro, non solo nella polizia penitenziaria, provengono dal sud Italia. E quindi una volta che uno ha vinto questo concorso comporta uno sradicamento dalla propria famiglia, dalla propria regione, città, dai propri affetti. E per quanto mi riguarda personalmente, mi ritengo di essere fortunato in quanto io già, come avevo detto, vivevo a Bologna, quindi vinto il concorso erano usciti 5 posti a Bologna e ero tra i primi del corso e quindi ho avuto la possibilità di scegliere, quindi non sono capitato in questa città per caso, ma diciamo vivevo già qui e quindi ero già inserito in questa città e avrei voluto vivere qui, quindi mi ritengo molto fortunato. Però secondo me rispetto al passato la situazione è cambiata molto, in quanto diciamo adesso naturalmente ci sono molti collegamenti, quindi ci sono persone che lavorano, che ne so, a Milano e però vivono a Roma, quindi diciamo siamo nel 2021,

ci dice di chiamare i detenuti per nome, quindi e quando ci rivolgiamo ai detenuti di usare il lei, quindi c'è proprio espresso nella legge dell'ordinamento penitenziario. Quindi diciamo che sicuramente non va usato un rapporto confidenziale ed amicale, anche perché comunque poi non se no altrimenti non riusciremmo a fare il nostro lavoro nella maniera più corretta, ecco. Quindi, però sicuramente molte volte è vero, cioè, non bisogna essere dei robot freddi, insomma, anche perché molte volte ci troviamo a dare anche delle comunicazioni importanti, che ne so, dobbiamo comunicare che è morto un loro familiare e quindi o altre situazioni, diciamo, analoghe. O quando si verificano delle situazioni di atti autolesionistici, insomma, bisogna cercare comunque di avere un approccio anche molto umano e poi dipende appunto saper capire le varie situazioni e i vari momenti e quindi cambiare in base, diciamo, alle situazioni, ecco. E avete appena ascoltato l'ispettore Antonio Molinaro della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Ci saranno altre pillole a seguire a questa, perché è stata per appunto un'intervista molto ricca. Se avete dubbi, domande, scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via Salomulo 2, 40136 Bologna per ogni richiesta scritta. E non esitate anche a contattarci sui social per qualsiasi ulteriore richiesta. Alla prossima. E anche oggi la prima parte della nostra trasmissione termina qui, ma mi raccomando non cambiate canale, perché tra pochissimo ci sarà la rubrica Voci da dentro di AVOC. Ascolteremo infatti alcune testimonianze da persone detenute o ex detenute. Vi ricordo anche che con Liberi Dentro siamo in onda dal lunedì al venerdì su Radio Città Fuggico, su Teletricolore e Lepida TV, ma saremo con voi anche durante il weekend con le nostre rubriche. Oggi parliamo di un caro saluto a tutti da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e dal nostro tecnico Enea Flacco. A domani! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.